amore, come batte il cuore quando ti sento qui vicino a me. Non posso fare a meno dei tuoi baci, non posso stare un'ora senza te. Amore, amore, ho dentro un gran dolore, proprio nel cuore, non so cosa farò. Quando ti penso mi sembra di sognare, se resto sola lo so che piangerò. Ancora qui con me, e per averti saprei anche adorarti, allora dimmi che ami solo me. Amore, amore, non so cosa succede, ma questa sera so già che tornerai, e non mi importa restare ad aspettarti, soltanto un'ora vedrai che basterà. Dimmi la verità. Thank you.